Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. Primo giugno 2015. Il bucato con gli agrodetergenti, una delle nuove sfide dei giovani agricoltori italiani. Spira un vento nuovo nel mondo agricolo, un'idea che ha fatto scuola ad oltre 4 anni dal lancio è quella di Brillor, una linea di detersivi e detergenti naturali frutto della macerazione di erbe officinali. Dietro a questo, come ad altri prodotti, c'è una seria attività di ricerca, tanta creatività, attenzione ai gusti del mercato e naturalmente una forte sensibilità ambientale. Il risultato è una linea di prodotti che ha conquistato una piccola ma significativa fetta di mercato. Il caso rilancia la vocazione creativa della nuova impresa agricola italiana. Sono oramai un piccolo popolo, infatti, i giovani imprenditori agricoli che negli ultimi anni hanno lanciato prodotti e innovazioni a partire da una professione antichissima. Fin qui la notizia del primo giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Brillor è una linea di detergenti lanciata da una giovane realtà agricola, la Cascina Meira, che produce erbe aromatiche ed officinali secondo i metodi dell'agricoltura biologica ad Alice Superiore, in provincia di Torino. È nata così la cooperativa Le Erbe di Brillor, una delle esperienze che si sono messe in evidenza all'Assemblea dei Giovani della Coldiretti. Paola Polce è una dei 3 soci. Pensiamo che, come è successo in passato, dalla terra si possono trarre numerosissime risorse, non solo per mangiare, non solo per la cura della persona che già è tantissimo, ma anche proprio per magari sostituire una parte della petrolchimica con sostanze naturali che ovviamente si impattano diversamente con l'ambiente e che creano maggiore attenzione sul territorio. Per cui il progetto non è nato ieri, io mi sono agganciata a una ragazza di 40 anni che è chimica e che da 15 anni ha cercato di capire come operare per la salvaguardia delle acque e nel piccolo ha pensato bene che ogni gesto quotidiano può essere importante, quindi si è messa a inventare questi detersivi fatti con gli estratti delle piante. Io poi sono naturopata e avevo anche una situazione economica insomma, tale, per cui ho assorbito questo progetto su di me e li ho aiutati a espandersi a livello di mercato e soprattutto a trovare delle soluzioni di vita possibile, perché l'idea di per sé è molto semplice. Noi, come fanno i contadini con l'uva o con la frutta, vogliamo coltivare, prendere queste erbe, trasformarle in un prodotto e farlo sapere al mondo. Questo era molto semplice come progetto. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.